Comunque, Bondi, questo ministro che non va a Cannes, un po' chi se ne frega se un ministro non va a Cannes, ma di solito i ministri vengono invitati oppure ci vanno di loro sponte? No, vengono invitati, è chiaro. Vengono invitati in quanto rappresentanti della cultura italiana, come ministro dei beni culturali. Diamine, è importantissimo. Lei dice, eh? Certo, io ho fatto un'intervista su questo con la stampa, il giornale della stampa. Sì, che ha detto? Che era, partiva da un presupposto, penso fosse Voltaire, lei mi aiuterà a dire, io detesto tutto quello che lei dice, ma darei la vita perché lei possa dirlo. Non l'hanno scritto questo sulla stampa. E non l'hanno scritto perché fa paura, perché noi viviamo di censure nel cinema, parlo del cinema, quindi di Cannes, eccetera. Io sono stato a Cannes con il mio primo film e con un altro. Bene, noi viviamo di censure, o da parte dei cattolici o da parte della sinistra. Quando io ho fatto Claretta, è successo l'inferno, ma dal punto di vista ideologico, non per il film, altro che Bondi. Il problema è questo. Poi Moravia scrisse su di me un articolo che si chiamava Il piacere della libertà. In questo caso però non ha niente a che fare con la censura, perché il film non è che viene censurato. No, ma è un atto censorio. Cioè, e perché? No, ma la censura non c'entra niente. Scusate. No, no, è un atto censorio, tipo sovietico. Cioè dire io non vado per questo film, perché questo film significa limitare la libertà dell'autore. Cioè un ministro dei beni culturali non può assolutamente esprimere In questa misura, perché la signora Guzzanti, io non ho visto il suo film e non mi interessa neppure molto, la signora Guzzanti è comunque un'autrice del cinema italiano che dice quello che le pare, ha la libertà di dire quello che vuole. Ma non è che le viene impedito, eh? No, non le viene impedito, ma comunque è una forma censoria. Cioè, lei dice lei dice una forma di intimidazione che viene dal ministro dei beni culturali, che ne so, censoria. Certo, certo. Cioè, vede, anche io ho fatto un film sull'Abruzzo che il ministro ha visto, si chiama Il giorno della Shoah. Sì, sì, come no. Ed è passato nel giorno della Shoah, ma non va a nessun canne. Quindi il problema è che noi continuiamo a vivere un clima intimidatorio, non dimentichiamo le origini di questo ministro, che viene sia da destra che da sinistra. Cioè lei dice si è rivisto il vecchio comunista Bondi? Sì, come il vecchio democristiano Andreotti, cioè... E chi ha ammazzato i ladri di biciclette, chi ha ammazzato Visconti con Rocco e i suoi fratelli, è la Chiesa, i cattolici. E poi sono arrivati i cattocomunisti, i comunisti, eccetera, la sinistra. Io ne ho passati tutti i colori in questa direzione.